Le 11 in punto e come promesso siamo al telefono con Wolf Bukowski, che saluto. Ciao Wolf. Ciao a tutti. Wolf Bukowski da pochi giorni è uscito in libreria con il suo terzo libro che si intitola La buona educazione degli oppressi, piccola storia del decoro, edito da Alegre, e di questo ovviamente vogliamo parlare. È un tema che qui insomma sui 100-300, quello del decoro, del degrado, della criminalizzazione anche della povertà, affrontiamo spesso, e la prima domanda che ti volevo fare, Wolf, è relativa in generale alla tua produzione, diciamo, di libri. E dopo due libri incentrati sul cibo, in un certo senso, ovviamente il cibo era, come dire, lo spunto per discutere di tante cose, hai cambiato radicalmente tema. Ma sai che ci pensavo anch'io a questa cosa, ma in realtà non è così, perché degli ultimi libri, appunto quello a cui tu fai riferimento, che è La danza delle mozzarelle, parlava di cibo, ma di come il cibo e il mercato del cibo, quindi Italy e compagnia, trasformano la città. L'albi successivo, scusa che passa un camioncino che consegna cibo, appunto, ecco appunto. Il successivo parlava di come il razzismo culturale interviene nella politica pesantemente, dividendo anche sulla base del cibo, questo qui un po' è la sintesi, no? Nel senso, quindi, come nelle trasformazioni urbane entra sia il neoliberismo tramite tutto un nuovo mercato di turismo e cibo, che il razzismo, che è estremamente presente purtroppo nella politica contemporanea. Quindi alla fine ho pensato che poteva essere una trilogia, così anche la chiudiamo, insomma, e passiamo ad altro. Esatto. E appunto nel tuo libro, insomma, leggendolo mi sono venuti veramente tanti spunti, non so se riuscirò a rigirarteli tutti visto che il tempo è tiranno, però insomma prendiamo spunto dal sottotitolo, no? Piccola storia del decoro. Tu ricostruisci un po' anche come la retorica del decoro sia nata, e spesso noi importiamo appunto dagli Stati Uniti tante cose, alcune anche molto negative. Tutto nasce lì? Ma sì, io ho usato questo approccio, diciamo, genealogico, osiamo dire così, perché ogni altro approccio andava a sbattere contro il fatto che il decoro non è definibile. Il decoro è per sua natura impermeabile a una spiegazione razionale, e come provo a spiegare nel libro, questa è purtroppo una sua forza, per cui l'unico modo per riconoscerne la natura e gli effetti era guardare il suo sviluppo storico, quindi da cosa nasce, quindi è un'esigenza di valorizzazione immobiliare di fatto in una città profondamente in crisi a causa schiacciata dai debiti e dalle pretese dei creditori, che era New York dopo il 1975. Quindi nasce da questo e arriva a espulsione delle classi più popolari della città, valorizzazione neoliberale, privatizzazione, che quindi è l'esito attuale. Per cui guardando indietro, guardando davanti, si capisce cos'è il decoro. Guardandogli in faccia invece è sfuggente, il suo sguardo guarda sempre altrove e ti dice no, ma è solo tenere pulita la città, non è vero, è qualcosa di molto diverso. Ecco, questo approccio securitario, che è anche securitario, insomma, poi adesso ne parleremo, si basa anche su delle teorie che si sono poi rivelate così false, non scientifiche. C'è un capitolo che si intitola proprio La teoria delle finestre rotte. Sì, allora infatti io parliamo poi di decoro, ma in realtà il libro è su tutto quell'impasto che è sicurezza e decoro, che sono indistinguibili, come dimostrano tra l'altro plasticamente i due decreti recenti, Minniti e Salvini. Entrambi sono un impasto indistinguibile di sicurezza e decoro. Quindi ciò premesso, tutto questo nasce, diciamo, a livello teorico dalla teoria delle finestre rotte, che è una teoria falsa, è una teoria pretestuosa, che parte per esempio dicendo con una missione, parte, è stata pubblicata nel 1982, parte ammettendo che un progetto di pattugliamenti a piedi in diverse cittadine statunitensi è stato un fallimento. E allora i due autori dicono, quindi lasciamo perdere, usiamo i soldi utilizzati per aumentare i pattugliamenti a piedi, usiamoli per altre operazioni di polizia, no? Quindi di indagine, magari crimini complessi, così. Dicono no, e invece no, continuiamo, perché anche se non ha effetto sul crimine, ha effetto sulla percezione del crimine. Quindi i diciamo, i buoni borghesi della città sono più soddisfatti e quindi, aggiungo io, votano più facilmente il candidato sindaco che propone più pattugliamenti a piedi. Ecco, quindi da questa finzione, che dimostra subito come tutto il discorso sulla percezione sia falso, si sviluppa quella che è la teoria egemone sul piano della sicurezza urbana, sul piano criminologico, purtroppo ancora oggi, dopo 40 anni. Certo, poi appunto tu nel libro ribadisci una cosa che insomma potrebbe anche essere nota, ma viene abbastanza oscurata, il fatto che le statistiche sui reati di qualunque tipo sono in discesa, eppure la sensazione, la percezione, come dicevi appunto, di insicurezza aumenta. Una cosa interessante è che queste politiche si sono, già lo anticipavi, si sono rivelate inefficaci al punto da fallire, come appunto la famosa tolleranza zero è un sistema fallito. Sì, è molto interessante. Noi siamo ancora qui a rincorrerla con Salvini, che ogni 3x2 dice tolleranza zero, il PD, tutti gli altri, 5 Stelle, che ci vanno sempre dietro ripetendo tolleranza zero per qualsiasi cosa. E nel frattempo, invece, allora le prime analisi critiche sono di pochi anni successivi alla tolleranza zero newyorkese, quindi fine anni 90. Adesso addirittura nel 2016 esce un documento del Dipartimento Municipale di Vigilanza dell'organo municipale di vigilanza sul Dipartimento di Polizia newyorkese, quindi un documento ufficiale che dice: abbiamo analizzato 5 anni di dati e ci dimostrano che non c'è alcun nesso tra la persecuzione dei piccoli illeciti, che vuol dire bere per strada, che vuol dire uno che fa pipì in un angolo, che vuol dire tutto quello che è la tolleranza zero, tra la persecuzione dei piccoli illeciti e la riduzione dei crimini gravi. Quindi insomma le finestre rotte non sono vere, perché la premessa teorica era quella lì, cioè che con una persecuzione pesante di piccolissimi comportamenti illeciti si sarebbe ottenuto una riduzione dei crimini gravi. Ecco, adesso sono addirittura gli organi municipali a dirlo a New York, noi invece inseguiamo. Certo, poi appunto sulla politica italiana e la sua trasversalità nell'applicare queste politiche ci arriviamo. E una cosa interessante è che... Scusa, ovviamente volevo dire, scusami se ti interrompo, volevo ovviamente dire, sono gli organi municipali a smentirlo, forse mi sono sbagliato a parlare. No, certo. Smentire il fatto che ci sia un nesso, perdono, scusami. Certo, ecco, la premessa del tuo libro è che sostanzialmente tutto ciò è stato possibile anche grazie alla cancellazione del concetto di classe, no? Della categoria di classe che ha portato le persone ad essere individui sempre più soli e anche spaventati. Sì, lì ci sono due movimenti. Uno, diciamo, globale, che è quello che inizia negli anni 70, diciamo, che costruisce le ideologie meritocratiche, che costruisce la colpevolizzazione dei poveri, eccetera, eccetera. E quindi questa è una cosa che analizzo globalmente. Poi c'è uno specifico italiano ed europeo, che è la devastazione neoliberale, che inizia negli anni 90 e che in qualche modo occulta ogni altra forma di sicurezza, perché allora la sicurezza, quando si parla di sicurezza, allora si intendeva ancora in gran parte sicurezza sociale, invece occulta ogni altro tipo di sicurezza esistenziale, abitativa, del lavoro, eccetera, eccetera, in nome di una presunta sicurezza dal crimine. Quindi c'è questo duplice movimento, uno globale, uno, diciamo, quantomeno continentale, che fa sì che splenda questa stella della sicurezza, in questo senso molto ridotto, che viviamo oggi, e che scompaiono invece tutti gli altri elementi che renderebbero una vita più bella per le persone, diciamo, che non hanno tutti i soldi per comprarsela. La paura è l'elemento appunto che è stato più volte sbandierato un po' in tutto il mondo e anche in Italia per il consenso elettorale, per portare avanti politiche appunto securitarie, politiche di decoro. E allora Wolf, un aspetto interessante che tu sottolinei è come, lo anticipavi già prima, insomma, a proposito di sicurezza, è come parallelamente a questi discorsi contro il degrado, per il decoro e appunto per la sicurezza intesa come sicurezza militare, parallelamente, dicevo, veniva smantellato il welfare. Sì, questo è un dato assolutamente fondamentale, e non va mai sottovalutato, perché appunto è su quella inquietudine che cresce a partire appunto dagli anni 90 che viene costruita a suon di appunto privatizzazioni, tagli, rigore di bilancio, tutte queste parole d'ordine che ancora adesso, dopo così tanti anni, sono determinanti nelle scelte politiche, su quella si costruisce appunto una sottile, costante inquietudine di perdere tutte quelle piccole certezze che tu avevi. Quindi quando usano la formula famosa, la pancia della gente, quindi dobbiamo fare qualcosa che soddisfi la pancia della gente, ecco, questa pancia della gente è stata svuotata da tutte quelle piccole certezze su cui uno costruiva un minimo di serenità di vita, quindi la certezza di una pensione a un'età passabile, la certezza di in qualche modo la tutela del proprio abitare, del proprio lavoro, del proprio reddito, ecco, è stata svuotata di questo, è stata riempita di paura. Quindi io contesto molto queste due idee, cioè il fatto che esista una pancia della gente che produce cose fascistoidi, non è vero, sono state messe dentro queste cose, e contesto anche l'ipotesi di guerra tra i poveri, perché anche questa non è una guerra che spontaneamente si genera tra i poveri, ma è stata l'individuazione di nemici, di nuovo voluta e calata dall'alto, che ha prodotto questa microconflittualità. In tutto questo il centro-sinistra, o quello insomma che si definisce tale, non è assolutamente diverso dalla destra? No, anzi, mi è risultato molto interessante andare a leggere una serie di documenti degli anni 90, soprattutto quelli che ruotano attorno al progetto Emiliano Romagnolo delle città sicure, perché dimostrano come in realtà in questo parlare ossessivamente di questo tipo di sicurezza la sinistra sia stata maestra, un pochino fraintendendo con intenzione quelle che erano le stesse riflessioni degli studiosi a cui si rivolgeva, e un pochino proprio col fatto di parlare sempre di questa sicurezza sganciandola da ogni dato statistico, da ogni accertamento su effettivamente di quali sono le pericolosità. Faccio un esempio banale: se tu parli ossessivamente di omicidi e furti, a prescindere dal fatto che non ci sia in corso alcuna epidemia di omicidi e furti, non stai parlando per esempio della sicurezza stradale. Faccio un esempio sciocco e banale, però è una scelta, non è scegliere temi nel dibattito politico è determinante per orientarlo, ed è stata orientata così. Nessuno più parla di sicurezza del lavoro, nessuno più parla di sicurezza stradale, si parla di furti e omicidi come se ci fosse in corso una costante esplosione di furti e omicidi, cosa che statisticamente non è. E quindi in questo a sinistra è stata perfettamente funzionale il discorso neoliberale, anche perché appunto avviene negli anni 90, quindi nel momento in cui la sinistra sposa pienamente la terza via, quindi non che prima la sinistra di governo emiliana fosse assolutamente, come dire, fosse veramente di sinistra, per così dire. Però è anche vero che un matrimonio così forte con gli interessi, con le scelte neoliberali come quello degli anni 90 è appunto la novità. Certo, ecco, noi ci siamo concentrati fino a questo punto molto sulle misure repressive, però a un certo punto la retorica del decoro ha fatto uno scatto, è diventata così, anche ha evocato il trendy, diciamo così. Sì, questo lo vediamo in maniera molto, molto forte, per esempio qui a Bologna lo percepiamo costantemente, dove appunto ormai il passaggio successivo, come dici tu, lo scatto è quello della valorizzazione turistica, per cui il decoro non diventa più fine a se stesso, diventa evidentemente appunto come sempre intenzionato a espellere le presenze sgradite della città, ma fa anche appunto un passaggio in più che diventa quello di coinvolgere le persone in un'idea di bello che però è anche questa appunto un'idea di bello escludente, è un'idea di bello che riduce gli spazi pubblici o li disciplina in un modo nuovo e più oppressivo. Faccio un esempio molto banale di un paese della provincia di Bologna dove è stata messa una, che è Vergato, dove è stata messa una bella, secondo alcuni, statua nuova davanti alla stazione. Ecco, quindi in occasione di questa nuova installazione, quindi dell'irruzione del bello in questo paesaggio, in questo paese, sono state tolte le panchine, tolte gli alberini che in qualche modo erano connessi alle panchine, eliminato quindi ogni possibilità di sostare in questa piazza, che però è stata valorizzata da una bella statua, ed è stato aggiunto un ancora più pervasivo sistema di videosorveglianza. Ecco, questi sono i modi in cui si costruisce il bello, si vende il bello, e intanto si continua a alimentare una retorica della paura e un uso disciplinare degli spazi pubblici, cioè dove non li puoi privatizzare, li disciplini in modo da evitare presenze che non siano quelle che tu hai deciso possono essere, che è quindi il passante, il buon cittadino consumatore, eccetera, eccetera. Certo, tutto questo produce anche degli effetti schizofrenici. Tu nel libro ricordi come il sindaco di Firenze Nardella fosse più preoccupato per le fioriere rispetto alla vita di migranti, e il riferimento ovviamente è all'omicidio di Didiene, alle proteste della comunità migrante appunto in seguito a questo omicidio. E poi ci sono veramente anche tanti altri spunti, la guerra ai graffiti, insomma. Consiglio vivamente ovviamente agli ascoltatori, alle ascoltatrici, di leggere, ricordo ancora il titolo, La buona educazione degli oppressi, piccola storia del decoro. Volevo chiudere, Wolf, dicendo che questo libro contiene una dedica. Sì, è una dedica al nostro caro e che ci manca, compagno Rocco di XM24. Ecco, mi coglie di sorpresa a dirmelo, però sì, mi fa piacere ripeterlo anche qui. Sì, sì. Certo. Che è con noi e lotta insieme a noi e sui temi dell'esclusione e del contrasto a questo uso disciplinare spazio pubblico si è speso tantissimo, e quindi ho pensato fosse giusto e indispensabile ricordarlo. Certo, grazie mille, ricordo ancora una volta La buona educazione degli oppressi, piccola storia del decoro, edito da Alegre. Grazie mille, Wolf. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao.